Io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. A chi non piacerebbe dormire all'aperto in inverno in Norvegia, sotto un bel cielo stellato, solo con un sacco a pelo? A me è capitato qualche anno fa, non perché l'avessi deciso io, ma perché a certe volte gli eventi ti obbligano a scelte che in realtà non faresti mai. Ciao, mi chiamo Mauro, abito in provincia di Vercelli e ho quasi 58 anni e sono medico neurologo. Vi è capitato qualche volta di dare un ordine o di dire qualcosa che a qualcuno che andasse fatta, no? Un vostro collaboratore, vostro figlio, il vostro cane, col cane è lampante. C'ha un cane da qualche tempo e ogni tanto dici no, questa cosa non si fa, perché gli educatori dicono che bisogna essere diretti e dire semplicemente no mentre la sta facendo. Ecco, vi sarà capitato, no, di dare un ordine, e vi sarà però anche capitato che mentre lo date vi accorgete, spero che vi sia capitato, che quello non lo sta facendo o comunque non lo farà. E nonostante ci sia da una parte il vostro essere in positivo in quel momento, per cui dovrebbero obbedire a quell'ordine, no? Quelli a cui lo state dando, e quindi se la prende, da un'altra parte c'è sempre piccola nascosta dentro di voi una sorta di piacere per il fatto che quello un pochettino sta disobbedendo. C'è qualcosa di piacevole, di gioioso nella disobbedienza, che sia la vostra o che sia quella di qualcun altro. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:09 minuti, quasi 10 di un martedì qualunque, 10 settembre 2013, siamo in diretta come al solito, è la nuova stagione di Voi Siete Qui, è la terza stagione, da qui fino all'anno prossimo. Voi siete qui, @radio24.it per mandare le vostre storie che continuano ad arrivare e che continuiamo a collezionare e a leggere con calma io e Tiziano. La squadra è sempre quella, io, Tiziano Bonini, che scrive insieme a me questo programma, mette le musiche, Paolino Corleone dall'altra parte del vetro e soprattutto Margherita Ina, che da ieri praticamente ha chiesto un aumento alla radio, visto che è stata di fatto, si è svelato il fatto che è il capo di questo luogo, di questa redazione, perdonatemi. Mi è successa un'altra cosa riguardo la disobbedienza quest'estate, poi andiamo al racconto di Mauro che è molto interessante e parla di diserzione in qualche modo, però parla soprattutto di disobbedienza. Ho conosciuto un ragazzo che ha più o meno la mia età, 41 anni, che era un amico di amici, e durante una cena, una sera, è venuto fuori un discorso generazionale. Sapete, di solito quando si comincia a parlare di generazioni è perché si sta invecchiando, e più o meno era il nostro caso. E a un certo punto lui mi ha detto una teoria che ho trovato molto interessante. Mi ha detto, secondo me la nostra generazione, e per nostra intendo 35, 40, 45 anni, è stata educata troppo a essere rispettosi e obbedienti nei confronti delle autorità e di quelli più anziani di noi. Per cui se qualcuno era ad un posto di comando, se qualcuno ti dava un ordine ed era più anziano di te, aveva diciamo due generazioni sopra la tua, c'era un motivo. Era giusto che fosse lì, perché ne sapeva più di te e perché banalmente era più anziano di te. E quindi siamo cresciuti con questa forma di obbedienza e di rispetto assoluto verso l'anzianità e verso i ruoli più alti dei nostri. Ecco, questa cosa qua, a noi di questa generazione di quarantenni, ci sta mettendo in difficoltà, insomma. Perché mai nessuno di noi, mai nessuno ci ha insegnato a mandare un pochettino a quel paese, anche quelli più grandi di noi, anche quelli più anziani di noi, anche quelli che ne sapevano di più, perché magari noi avevamo un modo diverso di fare le cose. Non so cosa c'entra con la puntata di oggi, non so cosa c'entra con la situazione che stiamo vivendo in questo paese, però un po' c'entra. Secondo me un po' c'entra e voglio ringraziare Claudio per quella chiacchierata di quest'estate. 349-238-6666. Avrete prima o poi mancato, non di rispetto, ma mancato ad un ordine. Avrete disobbedito, avrete disertato un appuntamento, avrete disertato una riunione coi colleghi, una cena di classe di quelle che vi rincontrate dopo anni. E avete detto, guarda, ci sono sicuramente, avete messo anche il partecipa su Facebook, sull'appuntamento, e poi l'avete disertato. Un appuntamento d'amore, un appuntamento di lavoro. 349-238-6666. Oggi, in tutti i modi possibili, si parla di diserzione, e lo si fa grazie alla storia di Mauro. Mi chiamo Mauro, ho 26 anni, sono un tipo tranquillo, pacifico. Da poco tempo ormai mi sono laureato in medicina. La mia aspirazione è di fare il neurologo, ma nel frattempo sono partito per il servizio militare obbligatorio. Come molti piemontesi, sono stato arruolato alpino e grazie al mio titolo di studio sono stato promosso aiutante di sanità, che in gergo militare significa infermiere. Sono stato destinato ad un piccolo reparto dislocato in un paesino del Piemonte occidentale, appena sotto le Alpi. Il reparto è composto da circa un centinaio di alpini, compresi 3 sottufficiali, 3 sottotenenti e il tenente, che comanda tutti. In caserma praticamente io cerco di risolvere per quanto possa i problemi medici, supplendo la mancanza dell'ufficiale medico non presente perché il numero limitato dei militari non lo prevede. Sono però un po' preoccupato, perché tra qualche giorno il mio reparto partirà per l'esercitazione invernale della NATO in Norvegia. E ho saputo che il comando della brigata invierà un ufficiale medico che si fermerà con noi per tutto il periodo dell'esercitazione. Non è un bell'affare, perché oltre al tenente, comandante di tutta la compagnia, dovrò dipendere anche dal sottotenente medico. Durante l'esercitazione, a parte i primi giorni, diciamo, di acclimatamento, che oscillano tra i 7 e i 10 giorni, c'è la vera guerra, ovvero una guerra tra virgolette, una guerra finta, che è già stata scritta precedentemente, una fase di avanzata contro un nemico, e poi c'era un ripiegamento a seguito della controoffensiva del nemico e quindi l'avanzata finale, insomma, una presunta vittoria. 6 marzo 1980, finalmente, dopo molti preparativi, si parte. Il sottotenente medico è arrivato da qualche giorno. È meridionale, è nato al mare e le montagne non gli piacciono poi tanto. Sembra un bravo uomo. Abbiamo sistemato in una grossa cassa tutto il materiale sanitario che ci potrà essere utile nel corso dell'esercitazione. E io ne sono orgogliosamente responsabile. Da Pisa ci trasferiscono in Norvegia, nei pressi di Tromsø, oltre il circolo polare artico. Tutta l'esercitazione durerà circa 15 giorni, con una fase di acclimatamento, e poi i 5 giorni di finta guerra. Viene costruito il campo dove si alloggerà nei giorni precedenti e successivi alla guerra. Si scambiano visite di cortesia con altri reparti che partecipano all'esercitazione, inglesi, norvegesi, americani. I tedeschi, che non hanno portato truppe, hanno allestito un ospedale da campo, che è quasi migliore dei nostri in muratura. La guerra, come detto, dura 5 giorni e, secondo quanto già programmato, si compone di 3 fasi. Nella prima, il nostro reparto, assieme agli altri della coalizione, avanza contro il nemico, ma nella seconda e terza giornata il nemico contrattacca violentemente, obbligandoci a ripiegare, quindi riparte la nostra controffensiva, con la prevedibile grande vittoria finale. Il nemico, siamo nel 1980, è rappresentato da truppe dell'esercito norvegese ed americano, anche se sappiamo bene chi dovrebbe essere. Del resto il confine norvegese a queste latitudini è molto vicino a quello sovietico. Anche se lo svolgimento della guerra è già scritto, devono essere presenti degli arbitri in grado di decidere in merito agli scontri. Anche al nostro reparto viene affiancato un arbitro che purtroppo, come spesso accade, anche nelle partite di calcio, ci creerà grossi fastidi. All'inizio della guerra mi sistemano su una Jeep, servizio sanitario, su cui ha preso posto, oltre all'autista, l'ufficiale medico e la cassa dell'infermeria. Questa forma di privilegio è dovuta al fatto che, come sanitari, dobbiamo avere libertà di movimento per poter prestare un eventuale soccorso a tutto il gruppo. Anche se solo simulata, la guerra rimane guerra e ci vuole poco per rendersene conto. So won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom. La Jeep è qualcosa che ti pone in una dimensione privilegiata. Per spostarti non devi camminare. Hai un riparo e stai al caldo sia di giorno che di notte. Infatti, per evitare che la notte a meno 20-25 gradi il motore geli, si sta praticamente con il motore costantemente acceso. Il primo giorno di guerra fila liscio come l'olio. Gli alpini stanno bene, facciamo la famosa avanzata. Tutto attorno a noi è ghiacciato, compreso i fiumi, che vengono attraversati senza la presenza di ponti, tutto in un'atmosfera irreale. Nel tardo pomeriggio del secondo giorno di guerra, dopo innumerevoli spostamenti, succede un fatto imprevisto. Il nostro arbitro, dopo breve conciliabolo con il tenente, si appropria letteralmente della nostra Jeep. Ed io, assieme all'ufficiale medico, la cassa delle medicine e quant'altro, veniamo di fatto scaricati sul freddo ghiaccio norvegese. Le rimostranze dell'ufficiale medico non sortiscono alcun effetto, anzi, ci viene consegnata una piccolissima tenda da campo per due persone e ci viene ordinato di montarla e dormirci. A quel punto succede qualcosa di imprevedibile, per me assolutamente sconvolgente. L'ufficiale medico, cui un altro ufficiale superiore in grado ha dato ordine di montare la tenda, punto nell'onore, mi ordina di mollare tutto il materiale, prendere lo zaino individuale e seguirlo. Io a questo punto ho due possibili alternative. Obbedire al responsabile del reparto, che ormai conosco da mesi, cercare di montare la piccola tenda sul ghiaccio e rimanere nell'accampamento del reparto, evitando così ulteriori problemi. Oppure obbedire all'ufficiale medico che di fatto mi istiga a disertare. Lì mi sono trovato di fronte a una scelta da fare che, contro quello che mi sarei aspettato, ho fatto una scelta diversa da come sono abituato. Insomma, sono una persona tranquilla, invece lì ho optato per una situazione del tutto che poteva dare degli sviluppi anche complicati. Cerco invano di trattenere l'ufficiale medico prospettando le possibili conseguenze disciplinari, mentendo spudoratamente anche nel dirgli di saperla montare la tenda. Ma alla fine vengo convinto anche io e decido di seguirlo. Non lo so perché, sarà perché siamo entrambi medici, per spirito di corpo o per via comunque dell'attrazione che ha la disobbedienza, l'attrazione dell'ignoto, dell'avventura. Ci allontaniamo dal gruppo e ci incamminiamo in una notte buia e molto fredda, non sapendo dove siamo, dove andare e dove dormire. Mettiamo ben in vista sul braccio il distintivo con la croce rossa e via, all'avventura. A un tratto ci accorgiamo di essere capitati nelle vicinanze di un reparto militare americano dislocato lungo una strada. Alleati, o forse nemici. Quello che per prima cosa si nota dell'esercito americano è che tutto è sempre più grande. I camion sono il doppio dei nostri, perfino i Marines sembrano armati con due gambe. Notiamo anche una casetta di legno sul margine della strada, tipo quelle dell'ANAS, e vicino delle grosse assi di legna. Ci sistemiamo alla meno peggio sopra queste tavole di legna dentro i sacchi a pelo lasciati aperti solo pochi centimetri per respirare. Beh, non ci crederete, ma nonostante i meno 20 gradi, quel giorno, quella notte anzi, grazie al cielo stellato sopra di noi, ho passato una delle più belle notti della mia vita. Al mattino veniamo svegliati dagli operai norvegesi che avevano aperto la casetta di legno e che ci invitano all'interno, una vera benedizione, per la presenza di un bagno e di una minima bevanda calda. Alla fine salutiamo tutti e ci incamminiamo verso un vicino agglomerato di case, facciamo un po' di compere in un microscopico supermercato e poi, incontrati altri soldati italiani, ci facciamo spiegare dove è dislocato il reparto e lentamente ci incamminiamo verso il nostro accampamento. Ritorniamo al campo e lì troviamo una piccola tenda, bella e pronta, che ci aspetta. E l'avventura è finita lì. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So come on. Ho disertato la chitarra, che credo stia per il corso di chitarra. Dopo 7 anni di studio obbligato mi sono rifiutato di fare ancora una cosa che odiavo, suonare. Mia madre mi ruppe la chitarra in testa, letteralmente. Ma non so, sembra incredibile, adesso voglio credere a Claudio da Roma che scrive letteralmente mi ruppe in testa la chitarra e non suonai mai più. Però sembra una roba da bip bip, no? La chitarra sfondata in testa. Diserto tutte le cene di lavoro, non sopporta chi prova a fregarti tutto l'anno e poi fa finta di farti sinceri auguri. Andrea da Pinerolo, 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. C'è anche, come al solito, un profilo Facebook sul quale oggi abbiamo, casualmente, di solito lo facciamo solo sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, invece abbiamo anche pubblicato la foto che ci ha mandato Mauro, perché è molto divertente. Mauro, che chiameremo, per dirmi come da contratto, che da qui in avanti chiameremo il disertore, è al telefono con noi. Pronto Mauro? Ciao Matteo. Come stai? Bene, bene. Dove ti trovi Mauro? Sei in un luogo in cui non puoi parlare? Perché... Sì, mi sono fatto sostituire al lavoro e sono vicino a Novara. Però diciamo, continui a parlare con questo tono perché c'è qualcuno che ti potrebbe sentire, giusto? No. Ah no, è proprio il tuo tono di voce, Mauro. Ho proprio la voce un po' bassa. Ok, Mauro, partiamo da là, partiamo dal fondo del racconto. Scusami, dopo quello che è successo, dopo questa cosa, cosa è successo? Cioè avete pagato le conseguenze disciplinari, vi hanno fatto qualcosa? No, praticamente non è successo niente. né a me né penso all'ufficiale. Purtroppo non ci siamo più rivisti dopo quell'esperienza, perché lui è ritornato nel reparto dove prima faceva da dove veniva. Il servizio, sì, esatto. E io invece sono rimasto lì nella compagnia dove stavo e ho finito, ho fatto altri 6 mesi di militare, anzi sono anche diventato caporal maggiore, quindi non c'è stato nessun problema. Senti, e quindi non hai mai più visto questa persona con cui hai fatto, beh, di fatto hai fatto una cosa che ti ha segnato in qualche modo, perché quando hai deciso di mandarci un racconto ci hai mandato questa storia qua, no? Beh, certo, anche perché è una cosa che mi ha colto di sorpresa. Ecco, questa cosa non l'ho capita bene, Mauro, scusami. Cioè, tu dici, io sono una persona che non avrebbe mai fatto quella cosa e ti sei stupito del fatto di esserti fatto trascinare, o proprio a un certo punto ti piaceva questa cosa qua? Sei costretto in poco tempo a fare delle scelte strane certe volte. Soprattutto non hai tempo di pensare alle complicazioni che ci potrebbero essere. E poi ti dico un'altra cosa, io con la tenda non la sapevo montare. E non credo... anche l'ufficiale non credo che l'avesse mai vista. Tra l'altro mi dicevi prima fuori onda che non è, tecnicamente non sarebbe nemmeno una diserzione, giusto? Un'altra, esatto, definizione. Esatto, secondo l'ordinamento militare si dovrebbe parlare di allontanamento illecito. Ah, okay. che dura un giorno, però che comporta comunque delle pene, penso fino a 6 mesi di reclusione. Invece la diserzione è 5 giorni di allontanamento in tempo di pace e 1 giorno in tempo di guerra. Ok, diciamo i tempi sono diversi. Le pene sono notevolmente aumentate. Ma durante questi giorni di guerra simulata, diciamo, giusto? Qual è la definizione esatta? Guerra simulata? Beh, guerra, sì, guerra simulata, guerra finta. La chiamavate guerra proprio? Cioè dicevate sì. Primo giorno di guerra, secondo giorno di guerra? Certo. Era un copione che andava interpretato. Ma queste cose si fanno ancora, che tu sappia? Ma adesso hanno preso l'abitudine a fare sul serio. Quindi le beh, quello... non le fanno più. Quello non sì, so. Ahimè. So che quell'organizzazione qui faceva parte anche l'Italia, nel 2004 mi sembra sia stata modificata comunque... Penso che qualcosa si faccia ancora. Però tu non sei... Era la prima volta che andavi in Norvegia, giusto? Quantomeno. Vediamo una cosa positiva, insomma. Non ci sei mai più stato? No. E ti ricordi un posto strano, quantomeno, in mezzo al ghiaccio? Ma lì era tutto ghiacciato. Cioè, il bello di quel periodo, in quell'epoca, momento dell'anno, è che tu attraversi i fiumi senza bisogno di ponti. Perché tanto è ghiacciato, quindi un qualsiasi... diciamo piccola strada che arriva al fiume e poi tu la continui senza farti dei grossi problemi. Mauro, e poi dopo cosa è successo? Tu hai finito il militare, hai continuato la carriera, sei diventato medico. Sì, beh, lo ero già prima medico. Ah, certo, scusami, giusto, eri già laureato semplicemente. Per quello che ero stato nominato okay, okay. Di sanità. Che è un infermiere di fatto, giusto? Sì. E poi dicevi, sei diventato medico e hai la specializzazione, era quella che volevi, quindi sei diventato sì, neurologo. Neurologo, sì. Ok. Mauro, senti, io ti ringrazio anche perché sento questo tono, ho sempre la sensazione che tu debba andartene o debba tenere un segreto, quindi ti ringrazio per aver mandato il racconto e ti auguro in bocca al lupo per tutto. D'accordo, grazie molto. Buona giornata. Ciao Mauro, grazie. Ciao. 349-238-6666. Oggi si parla di diserzione, in qualche modo, o di disobbedienza. Voi siete qui. Non è purtroppo in Norvegia, nella foto che ci ha mandato Mauro e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, ma anche al profilo Facebook oggi di Voi Siete Qui Radio 24. Non è in Norvegia, mi piacerebbe immaginarlo, insomma, mi piace immaginare che sia così, che sia là a Tromso, in quel luogo con meno 20, e in realtà anche dalla neve che si sta sgelando dalla foto si vede che probabilmente è una inizio primavera sulle montagne, lui mi ha detto sulle Alpi occidentali piemontesi. Si trova Mauro in questa foto seduto su vestito da militare, quindi sta facendo qualcosa di militare. È seduto su una seggiola in legno, tiene i piedi appoggiati a un sasso, c'è un bel sole, lui ha su un giubbotto quindi fa freddo, e appoggiato a un tavolino da campo che ora sembra un tavolino da campeggio, ha una bella birra. Da Pisa ci trasferiscono in Norvegia, nei pressi di Tromsø, oltre il circolo polare artico. Tutta l'esercitazione durerà circa 15 giorni con una fase di acclimatamento e poi 5 giorni di finta guerra. Mi può per piacere restituire, questo è il messaggio, mi può restituire il numero, l'indirizzo email che prova a inviarle una storia? Glielo restituisco. Voi siete qui, @radio24.it. Vi ricordo che è una storia di una pagina, possibilmente. Guardate, stiamo dentro anche le due ormai, più o meno. Che sia un episodio della vostra vita reale, che vi è realmente accaduto, che racconta qualcosa di voi. Inviatela, voi siete qui, @radio24.it, e noi ci facciamo una storia. Stiamo parlando di diserzione oggi, in qualche modo, di disobbedienza, di mancanza di rispetto di una regola o di un ordine. Ciao Matteo, ho disertato una pericena di compleanno di un amico, non sopportavo la ragazza di un altro amico, Maurizio. Quindi vuol dire che noi stiamo sdoganando il termine pericena. Cioè, Maurizio, tu mi vuoi dire che senza nemmeno, che so io, un punto interrogativo tra due parentesi, tu mi scrivi a pericena così e io dovrei andare liscio, senza dire nulla? Poi tra l'altro mi piace Maurizio, non ci va, non perché gli sta antipatica la ragazza del suo amico, ma la ragazza di un amico. Quindi è un secondo me, però, la parola chiave Maurizio è apericena, mi sembra evidente. Che poi che cos'è? Un aperitivo dove si mangia, dove c'è tanta roba. È un happy hour, più o meno, giusto? Lo chiedo. Paolino non frequenta. Ho disertato l'interrogazione di matematica restando nascosta in un parco. Sara, come se sei nascosta in un parco, sei messa delle piante in testa. Io a 33 anni diserto ancora l'ordine assoluto di mia mamma di non andare in moto con gli amici. La parola chiave di questo messaggio è 33 anni. Ho disertato il primo esame all'università, dopo 9 anni ho ripreso. Oggi sono dottore, il tempo fa crescere. Gianni, la parola chiave di questo messaggio è dottore, direi. Forse due, 9 anni e dottore. E poi ce n'è un altro di Paolo che secondo me è il più psicotico di tutti. Il messaggio, Paolo, non tu ovviamente. Non ho mai rispettato maniacalmente l'orario di lavoro fino a quando la ditta l'ha reso flessibile. Una vittoria del buonsenso. Cioè, quindi, dunque... Aspetta un attimo perché mi sono inceppato. Sei avanguardia pura, Paolo. Cioè l'orario non era flessibile e tu non l'hai mai rispettato, giusto? Poi l'ha reso flessibile, cioè si può arrivare un po' quando vi pare. E tu da quel giorno ti sei messo in testa: io entro sempre alla stessa ora, giusto? È così? 349-238-6666 oppure sul profilo Facebook Voi Siete Qui Radio 24. Vi ricordo che Margherita Hina, che oltre a fare tutte le altre cose è ormai la tweet star più nota di questa redazione, tweet attraverso il nostro profilo Facebook, Voi Siete Qui R24, tutti i brani che mandiamo... scusatemi, profilo Twitter, certo, altrimenti cosa stavamo parlando. Tutti i brani che mandiamo in onda, che sceglie Tiziano, manda le cose che leggiamo, extra, e tutti i link possibili. Insomma, se avete un profilo Twitter, seguite Voi Siete Qui R24. Visto che si parla di diserzione, e visto che già qualcuno sugli SMS ce l'ha segnalato, c'è una poesia che poi è diventata nota perché è stata tradotta in musica da gente come Tenco, Ivano Fossati, eccetera, eccetera. Avete già capito? Si chiama Il Disertore. È una canzone di Boris Vian. È una canzone molto seria e molto triste, però anche, insomma, con una sua dose di verità. Una poesia, dicevo, molto seria e molto triste, che però, insomma, non potevamo fare a meno di leggere. Signor Presidente, le scrivo una lettera che leggerà, forse, se avrà il tempo di farlo. Ho appena ricevuto i documenti militari per partire in guerra, entro mercoledì sera. Signor Presidente, io non voglio farla, io non sono sulla terra per ammazzare povera gente. Non è certo per contrariarla, ma devo dirle che ho preso la mia decisione. Sarò disertore. Da quando sono nato ho visto morire mio padre, ho visto partire i miei fratelli e piangere i miei figli. Mia madre ha sofferto tanto che è già nella tomba. Se ne frega delle bombe lei, se ne frega anche dei vermi. Quando ero prigioniero hanno rubato mia moglie, mi hanno rubato l'anima e tutto il mio passato. Domani, di buon mattino, chiuderò la mia porta in faccia agli anni morti e me ne andrò in cammino. Mendicherò la mia vita sulle strade di Francia, della Bretagna e della Provenza e dirò alla gente: rifiutate di obbedire. Rifiutate di farla. Non andate in guerra. rifiutate di partire. Se bisogna dare il proprio sangue, vada lei a dare il suo. Lei, così buon apostolo, signor presidente. Se mi persegue, avverta le sue guardie che non avrò armi e che potranno sparare. Depuis que je suis né, je veux mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe où elle se moque des bons. Le Déserteur è una canzone francese che ha scritto Boris Vian nel 1954 e che è stata pubblicata esattamente il 27 maggio di quell'anno lì, giorno della disfatta dell'esercito francese nella battaglia di Dien Bien Phu, che segna la fine della guerra d'Indocina. 349-238-6666, ci piace ricordare che spesso mandiamo canzoni che non sono nemmeno su YouTube. Paolino, di solito si trova tutto lì e invece ogni tanto il nostro Tiziano Bonini ci ricorda che questa qui la trasmette una web radio inglese, che è una sottomarca della BBC, che la BBC ha disconosciuto e che ho trovato io per caso una notte mentre facevo una ricerca, che per mandarli in onda abbiamo dovuto fare i salti mortali. Grazie a Tiziano Bonini che rende possibile anche, oltre alle musiche, un sacco di altre cose di questo programma. Grazie a Margherita Ina, grazie a Paolino Corleoni. Voi continuate a scrivere storie e continuate ad inviarle a voisietequi@radio24.it. La storia di oggi era la storia di Mauro e anche lui è un punto rosso su una mappa.